Allora, apriamo il dibattito. Allora, se ci sono interventi da fare. Una domanda, una precisazione. Vai, Gennaro. Vai là, Gennaro. Amerigo, sì. Torna al tavolo, per favore. Sì, sì. Vai, Gennaro. Interessante riflettere sul fatto che ci diceva Anna che probabilmente dobbiamo fare un cambio di passo culturale, cioè non sentirci sudditi. Noi fino a quando vivremo in uno stato di diritto tutti siamo sottoposti alle norme, alle regole di comportamento, sono regole di comportamento. E voglio dire, dobbiamo fare probabilmente uno sprono a prendere il coraggio di affrontare le questioni anche da RSU, da lavoratori, in modo consapevole dei propri diritti e conoscendo bene le regole. Poi una cosa che mi è piaciuta molto, non è voglio dire semplice da metabolizzare, il concetto che l'insegnante, il docente è una figura ibrida, è una parte di tipo impiegatizio, l'altra parte professionale con libertà sancite non solo dalla Costituzione italiana, ma da convenzioni internazionali, di diritto, cioè andiamo a toccare proprio la carne viva, andiamo a toccare l'osso, cioè il diritto della libertà di pensiero, della libertà di parola. E questo che viene sotto sotto, questo viene impedito di pensare, cioè viene messo una mano in testa, voglio dire, alle persone. E quello che vedo nei colleghi docenti qua, purtroppo, io sono un assistente tecnico, ma assisto ai colleghi docenti scolari, intervengo pure anche se qualcuno si lamenta. Quello che vedo è che la stragrande maggioranza di persone subisce così, cioè subisce il collegio docente, non è consapevole dei propri diritti, della propria forza. E quello probabilmente il cambio di passo da fare. Ognuno di noi può ripetere queste cose a cascata, cioè noi possiamo funzionare da lievito con una pasta, con un impasto di pane nelle nostre scuole. Abbiamo il dovere, noi della FLC abbiamo il dovere di spiegare ai nostri colleghi che ci sono ancora tutti i diritti fino adesso, e quindi al posto di lamentarci o i nostri colleghi ci vengono a chiedere aiuto quando è stato calpestato il proprio diritto, diciamo così, molto spesso di tipo economico finanziario, dobbiamo ribadire queste cose, cioè spingere tutti quanti a partecipare democraticamente, perché voglio dire, non c'è la mente da che tenga. Se tu non partecipi democraticamente, se non segui e se non ti arrabbi quando vengono calpestati i diritti fondamentali, poi non te la metà poi vengono calpestati i tuoi diritti personali, i tuoi diritti. Però per chiedere una cosa, io sono intervenuto in realtà per chiedere una precisazione. Tu hai parlato di cavalli o cavallo? Cavalli. E il concetto che esprime Cavalli, proprio della figura ibrida del docente, vorrei che lo ampliassi un po', grazie. Rispondo subito. Altri interventi? Allora io ho da fare una domanda. Prego. Allora, Anna, tu dai per scontato che il pezzo che riguarda l'organizzazione degli uffici sia stato sottratto alla contrattazione di istituto. Noi abbiamo lungamente approfondito questa materia e abbiamo operato questo tipo di distinzione che deriva dalla coniugazione degli articoli del 165, segnatamente per i dirigenti di prima e di seconda fascia. Per la dirigenza apicale dello Stato, il potere dell'organizzazione degli uffici ha un perimetro ed una gestione che ha riflessi diretti sulla gestione e sulla definizione degli organici e dei rapporti con il MEF per l'autorizzazione, che dal nostro punto di vista può trovare, come dire, espressione limitante nella partecipazione sindacale. Quando invece parliamo di organizzazione degli uffici a livello di singola autonomia scolastica, laddove in realtà il dirigente non definisce in proprio gli organici, in realtà il dirigente non definisce le direttive perché esegue a sua volta, da gambe a sua volta, a direttive, a programmi didattico-educativi disciplinari, da esecuzione all'impianto normativo e contrattuale, noi riteniamo che questa forbice determini la possibilità, o meglio ancora, la necessità di salvaguardare e mantenere all'interno della contrattazione anche l'organizzazione degli uffici, intesa organizzazione degli uffici come eminentemente organizzazione didattica, perché tu quando vai a definire i criteri per i quali assegni un docente ad un plesso piuttosto che ad un altro, ad una classe piuttosto che ad un altro, o dai indicazioni per fare l'orario, perché fare l'orario dei docenti è competenza del dirigente scolastico, fai l'orario con uno spacco, tre spacco, tre spacchi, stai facendo delle azioni che hanno una natura per il riverbero, no? Che hanno per i destinatari, hanno una natura eminentemente organizzativo didattico, didattico organizzativo, che sta ancora oggi, secondo l'articolo 7 del 297 del 94, nella piena potestà del collegio dei docenti. Allora, ragionando su questi aspetti, dal nostro punto di vista, quando ci troviamo di fronte al dirigente che chiude ogni possibilità di concertazione, perché faticosamente ci accontentiamo anche della concertazione che è diversa dalla contrattazione, quando il dirigente chiude ogni possibilità di concertazione, noi ci inaspriamo e riteniamo e consideriamo che quella materia organizzativa che il dirigente di quella scuola sta trasformando in qualcosa di diverso, perché attiene all'organizzazione dei ministeri e delle filiere e articolazioni territoriali dei ministeri nella penisola italiana, non ha a che fare col contratto di scuola. Quindi sì, vorrei che tu mi chiarissi questo peso. Allora, rispondo prima all'altro, anzi no, rispondo prima a questo, perché come vuoi, c'è libertà di scelta. Allora, l'articolo 5 è vero, è una norma generale, cioè quelle distingue tra il potere di macro organizzazione e di micro organizzazione. La macro è quella che riguarda gli organici, l'istituzione di uffici, e poi viene fatto con provvedimenti di tipo pubblicistico, amministrativi. La microorganizzazione è l'articolazione interna dei singoli uffici, e non riguarda gli apicali, riguarda i dirigenti di seconda fascia dell'articolo 17. È vero, non hanno problemi, perché nell'organizzazione dell'ufficio i dirigenti di seconda fascia non incontrano nessun limite, proprio perché hanno il pieno controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti. C'è una catena gerarchica, c'è una gestione, una relazione gerarchica pura. È verissimo, nella scuola l'organizzazione degli uffici non è come quella dell'amministrazione in generale, però qui parliamo di gestione del personale, secondo me, quando parliamo di assegnazione del docente a una classe o a un plesso. È anche didattica. Esatto, sì, aspetta. Sì, sì, sto dicendo solo che non è microorganizzazione, ma gestione del personale, perfetto. Ma sì, sono d'accordissimo, non è tutto nel potere datoriale. Allora, però, non essendo nel potere datoriale, non è detto che vada in contrattazione, ma va nella disponibilità del collegio dei docenti, dovrebbe andare. Però dobbiamo pure ricordare che il testo unico stesso prevede un procedimento misto, no? Pareri e proposte. Indirizzi, consigli. Esatto, non è cambiato nulla, quello bisogna continuare a rispettarlo. Sono d'accordo, nonostante la bonnetta, è rimasto proprio così, ma proprio per questo motivo, perché essendo il potere organizzativo della didattica nella potere collegiale dell'articolo 7, è proprio vero, è lo stesso ragionamento dello staff, sono d'accordo, però non sposta l'asse verso la contrattazione, ma verso il potere del collegiale, sono d'accordissimo, sì, ma questo grazie a Dio ancora esiste, non so fino a quando, perché la mia paura è che ci sarà una modifica all'articolo 7, allora che succede se c'è una modifica all'articolo 7? Transita nel potere di microorganizzazione e gestione del personale dirigenziale. Sì. Così finirà, perché alla contrattazione secondo me non arriverà mai nulla che riguarda questa materia. il bilanciamento è tra potere collegiale e potere dirigenziale. Non lo so, secondo me c'è una specie di accerchiamento rispetto a questa materia, vi spiego cosa penso. Non avendo avuto la forza politica di fare una riforma dell'organo collegiale, stanno aggirando la materia e li apprenderanno alle spalle, nel senso che verrà indebolita, rinsecchita proprio la parte della libertà professionale, ma non con un intervento diretto, ma con tutti questi passaggi intorno. Perché? Perché Cavalli, quando parla dei semiprofessionisti nelle organizzazioni, dice che nel pubblico ci sono due esempi, quello dei docenti e quello dei medici. Ma quello dei medici però è una semiprofessione regolata, nel senso che loro hanno l'ordine professionale, quindi quando vanno in contrattazione loro hanno una doppia forza, hanno la forza della contrattazione e la forza dell'ordine, e la parte disciplinare afferisce alla parte dell'ordine. Cioè siamo un paese strano, perché noi abbiamo la libertà costituzionale, ma che non può rimanere non disciplinata, questo è chiaro, perché i docenti devono rispondere di quello che fanno. Io non sto dicendo a chi debbano rispondere, ma a qualcuno sicuramente sì, o al corpo professionale, a se stessi, ma bisognerebbe inventare un albo, un ordine, non lo so, un associazionismo riconosciuto, non lo so, a qualcuno devono rispondere. O chi rispondono? Al datore di lavoro? E allora la togliamo ed diventa un dipendente del dirigente a cui rispondere. Se non si sbroglia sto nodo, non se ne viene fuori. Questo della valutazione dei docenti ingarbuglia ancora di più le acque in un modo molto pesante, perché noi andiamo appunto a riempire di contenuti un vuoto costituzionale. È una cosa di una gravità enorme. Diciamo che cos'è la qualità dell'insegnamento, l'innovazione metodologica e didattica? È una cosa di una gravità incommensurabile, questa qui. Quindi sono d'accordo, sì. Non... Allora mi aspetto che la prossima volta che parlo di questo argomento tieni conto di questo accordo. Posso, posso interrompere? Sì. Allora, l'intervento che hai fatto, Anna, a me mi rafforza nell'idea che gli argomentazioni e tutto l'intervento che hai fatto mi convince ancora di più, di alcune cose. La prima, con la 107 il governo ha proseguito il filo di pensiero della destra e di Brunetta e dei governi laici, molto di più anche. Ad esempio, il patrimonio della destra è stata sempre la cosiddetta chiamata diretta, ma nel senso che reclutassero le scuole con un fatto di scuola. Questo governo ha fatto peggio, perché apparentemente dice a superiore certo che era migliore, perlomeno c'era un bando ed era trasparente, e quindi anche con tutte le tutele che un bando comporta. Qui assume lo Stato, ma sceglie a totale discrezione il dirigente scolastico. È peggiore come idea rispetto a quella della destra, se ci facciamo fare. L'altra cosa di cui e quindi la 107 tende da un lato ad estromettere il sindacato, quindi c'è l'idea della rilegittimazione. Dall'altro c'è l'idea, non hanno avuto il coraggio di fare la riforma degli organi collegiali, come ha detto tu, ma di fatto sono intervenuti a come. Per esempio, non c'è una contraddizione che secondo me è pesante che bisogna risolvere. Non hanno modificato, come hai detto tu, le competenze degli organi collegiali, ma invertivano, hanno invertito la gerarchia, esattamente come ha fatto Brunetta nel rapporto tra legge e contratto. Prima definite le materie di competenza del contratto, il contratto era soltanto una legge, adesso le competenze più o meno sono rimaste quelle, ma se interviene la legge il contratto non ha più come contratto. Quindi si è invertita. Se ci pensiamo un attimo, nella scuola è successo la stessa cosa, perché nella gerarchia precedente la direttiva al collegio la dava il consiglio di gestione. E non è cambiato. Se andiamo a vedere il TOF, adesso la direttiva è in mano alla dirigenza scolastica. Sì, io sono per ridimensionarla, ma a me pare una contraddizione, perché dal punto di vista concettuale questo significa che se io do la direttiva e l'organo che poi la deve tradurre in, la deve riempire di contenuti didattici in questo caso, come dire, è difforme rispetto alla direttiva che ho dato, io mi posso anche riprendere la mia autonomia. Questo è uno dei punti pericolosi. Sì. Ma adesso mi interessa relativamente approfondire, però è una contraddizione, secondo me bisogna chiarirla, come quella che ben hai evidenziato tu tra salario accessorio e che non si contratta, cioè è una cosa assurda. Allora tanto valeva che non lo chiamassero salario accessorio, mentre l'hanno definito compenso salario accessorio, però da nessuna parte si parla di ruolo del contratto, mi riferisco alla questione del bonus. Terza cosa, dico la mia anche sulla storia dell'organizzazione. Io non sono convinto che l'articolo 5 e l'articolo 17 e l'articolo 7 abbiano modificato l'articolo 25. Intanto perché Brunetta tutto aveva in testa meno la scuola, non ha fatto il disegno di legge. Primo. Secondo, la scuola non è un ufficio come gli altri. Ci sono gli organi collegiali. Il regolamento dell'autonomia, l'articolo 16,2, dice che il dirigente scolastico adotta il provvedimento di sua competenza, quindi in questo senso è quello che fa gli atti di gestione di sua competenza brunettianamente parlando, ma in attuazione delle delibere dell'organo collegiale. La stessa cosa dice l'articolo 25. Allora, ritornando al discorso di cosa è modificato, io non sono d'accordo, per esempio, su quella slide tu hai fatto vedere, cui ha depurato le materie che secondo il pensiero comune, diciamo, dell'ANP, ma anche di una parte della giurisprudenza, che il 150 avrebbe, come dire, spaggiato o trasformato la materia di contrattazione a materia di informazione e concertazione, che dobbiamo definire perché non siamo definiti l'istituto, una serie di materie. Perché, ripeto, secondo me l'articolo 25 non è stato modificato, le competenze degli organi collegiali ci sono, e io sono anche allo stato attuale per riconoscere l'accesso alle loro efficienze. Faccio un esempio piccolo. Come si fa a dire che l'assegnazione del personale ai plessi, docenti, ATA e alle varie sedi della scuola, dopo Brunetta non si contratta più? Ma scusate, il Ministero contratta con noi la mobilità, la funzione, l'assegnazione e l'utilizzazione annuali, e funzione pubblica MF autorizzano la firma del contratto? Sì. E qual è la differenza? Cioè, perché il capo dipartimento e il direttore del personale del Ministero, a norma Brunetta vigente, contratta questa materia che si chiama mobilità e utilizzazione del personale, e il dirigente scolastico non avrebbe più l'obbligo di regolare con un contratto, come dire, l'assegnazione del personale alle sedi, che non rientra nelle competenze degli organi. Mentre la situazione alle classi, l'attività, l'orario anche ha aspetti che attengono alla didattica, quindi al patrimonio degli organi collegiali, questo attiene semplicemente alla mobilità. Fino a qualche anno fa, nella scuola primaria, per andare da un testo all'altro, si faceva la domanda dello studente. Oggi, l'organico è unico, mi chiedo, vorrei anche per capire il pensiero nuovo, perché il capo dipartimento contratta e il dirigente non è più tenuto a contrattare? Stiamo parlando della stessa. Stiamo parlando della mobilità. Per me l'assegnazione da un plesso che sta in un comune diverso, 20 km, è mobilità del personale. Perché l'assegnazione della sede di servizio? Perché cambia? Perché quella utilizzazione. Quella del codice civile tra i poteri da privato. Ma l'utilizzazione che contrattiamo noi al Ministero, quando c'ho un presidente posto, quando c'ho un docente che sono, e contratto di tecnico per assegnare alle varie sedi. Cioè, perché la diligenza del Ministero, come dire, contratta e il dirigente scolastico? Comunque, ero solo curioso di capire il tuo punto di vista. Dopodiché c'è solo una conclusione da fare. Bisogna mettere qua delle regole, superare tutte queste abilità, perché quello che non sarebbe più nelle scuole è il contenzioso enorme che è venuto fuori dal progetto in poi, da tanti punti di vista, quindi dobbiamo mettere un punto fermo. E mi convince ancora di più che noi abbiamo l'appuntamento del rinnovo del contratto, ma prima del contratto ci sono delle tappe da fare. Una di queste tappe è che Maria ha la delega alla revisione del testo del 165, e no, aspettiamoci, io dicevo aiutare. perché sia per ripristinare, come dire, stabilire le materie, l'autonomia delle due norme, o legislative o contrattuale, quel principio di cui l'hanno ripristinato, perché altrimenti allora vanno fino in fondo, cioè rilegifichino il rapporto di lavoro. Dichiarino pure che le riforme degli anni 90 sono state un fallimento, non hanno prodotto niente, rilegificano tutto, dopodiché ci leghiamo le mani, perché una delle differenze fondamentali tra la contrattazione e l'atto legislativo è che la legge per cambiarla ce ne vuole, anche le studiate scritte sulla mobilità che si contraddicono fra loro sulla legge, abbiamo litigato 6 mesi per trovare le diritti, poi per un anno qualcosa per un immediato. Non so come va a finire l'anno prossimo, quindi io penso che ci sia bisogno di rivedere il testo unico per rimettere un po' a posto in proprietà cosa si deve contrattare e di stabilire la sovranità del contratto su quelle materie. Allora, questo è l'atteggiamento con cui noi ci sedremo al tavolo che si deve aprire su direttiva che ancora non c'è della Madia per rivedere il testo unico. Ricordo anche, questo attiene alla politica, che in campagna elettorale il partito di maggioranza del governo sarà preso l'impegno di vedere le varie controversie e conflitti. Il conto politico, tu prima dicevi ormai non abbiamo scelto, bisogna rifare come l'altra risorse, ma insomma l'emergenza che noi abbiamo politica in questo momento è di mettere in sesto il 165 parte le risorse e di ridefinire alla luce di quello che si decide di contratto. E il contratto da solo non sarà sufficiente per risolvere i problemi che abbiamo segnalato. Una cosa che mi preme ricordare è che il contratto attuale già prevede che la contrattazione dell'avvio delle scuole e dei luoghi di lavoro si esercita in attuazione delle delibere degli organi collegiali, anche quella. Quindi c'è come dire un mandato. Dopodiché le due parti sono sovrane. Faccio degli esempi: se il consiglio di istituto ha deciso che la scuola è aperta 5 giorni e non 6, che c'è il termopiero piuttosto che l'antimeridiano, che l'ufficio di segreteria deve essere aperto anche di pomeriggio piuttosto che solo al mattino, in 2 sedi piuttosto che una, è chiaro che quando io mi metto a discutere del fondo e del contratto, quello per me è un vincolo, è un vincolo per me e è un vincolo anche per il salvo l'ambiguità di dare direttive, perché questa secondo me è la 107. C'è l'intervento dalla sala. Io volevo fornire un ulteriore chiarimento su quella slide sulla contrattabilità del fondo, perché non è corrispondente alla realtà di una realtà. Certo. Ci troviamo in difficoltà in questa questione, perché interpretando la 107, i dirigenti hanno assunto a sé, avvocato a sé, questa cosa del bonus. Sì. E inoltre, giustamente, diciamo, noi abbiamo fatto una battaglia, abbiamo raccolto le firme. Io lo manterrei il punto della non contrattabilità, perché secondo me questo è il punto, diciamo, su cui si deve ancora continuare in battaglia sindacale, perché se no, non, come dire, il potere ai dirigenti, certo, così è esercitato proprio su questo. Andiamo sulla convenienza civica. Allora, volevo, va bene, lo riprendo un attimo, volevo dire una cosa rispetto a questa, a questo, a questa influenza sull'equilibrio dei poteri, no? Tra dirigente, collegio, consiglio, infatti il consiglio non ha più potere di indirizzo. Però guardate che alla fine io, andando ad analizzare bene la norma, parla di competenza del collegio ad elaborare il topico sulla base delle scelte di gestione del dirigente sull'indirizzo, sulle attività della scuola. Il fatto che il legislatore abbia distinto le scelte dagli indirizzi fa già capire qual è la debolezza dell'indirizzo. Questi sono indirizzi, non indirizzi del ministro sul direttore generale, ma indirizzi tra soggetti paritetici. Il collegio, se avesse consapevolezza dell'inconsistenza dell'indirizzo, potrebbe benissimo dire: sono indirizzi che non ci convincono per A, B, C e D, perché sono indirizzi non vincolanti in materia di competenza collegiale, perché l'attività didattica, si intende l'attività didattica, altrimenti sarebbero scelte dirigenziali che sono inopinabili perché attengono alla competenza dirigenziale. non è pericoloso, sì, come al solito non è pericoloso, bisogna capire se il collegio ne è accorto della differenza tra scelta e indirizzo. Il problema è quello che manca. Allora c'era un altro intervento ancora. Aspettate, devo dire una cosa. Il problema è proprio questo, che il collegio non si accorge. Scusa, finisce di chiarire Anna la domanda che ha fatto la Cammarella, sì, e poi ci stanno uno, due, e il terzo intervento sarà tuo. La storia dell'assegnazione ai plessi, secondo me però non è mobilità quello, mi spiego perché il bando di mobilità è veramente un atto normativo. Quando io assegno un docente ad un plesso, è un atto dato reale. Per questo, secondo me, è competenza dirigenziale. Ma si interviene nella, si interviene nella vita del lavoratore. E certo. A Gerola, lo so, i Monti Lattari. Purtroppo. Una scuola con i plessi. Io sono passata da Bologna a Roma. Io sono stata trasferita da Bologna a Roma e non hanno mica contrattato. Sai se purtroppo. Io precorro i tempi, noi stiamo precorrendo i tempi. C'è un docente. Abbiamo fatto ricorso al TAR, sapete come ce l'hanno spiegata? È l'ex specialist, che addirittura, nonostante il 165 non prevedesse modelli di trasferimento del personale senza contrattazione, senza, è l'ex specialist. Dobbiamo prendere atto di questo momento storico, del valore normativo delle decisioni politiche. Cioè, non mi impressiona questa roba, che poi bisogna recuperare modelli contrattuali, è un'altra storia. Bisogna riportare alla gestione del rapporto di lavoro certe decisioni. Questo sì, ma ci vuole una norma dello specifico, però, perché così come è scritta, io non lo vedo. Va bene. Poi, per quanto riguarda il bonus, riprendono sta cosa. Non ci vuole molto, mi faccio proprio uno schemino molto lineare. Il 107 parla di bonus come compenso accessorio, va bene? E da, però descrive questo processo decisionale tra il comitato e il dirigente. Che succede a sto punto? Che alcune rappresentanze dei dirigenti, l'ANP per essere chiari, dicono bene, e se è una prerogativa dirigenziale l'assegnazione del bonus, non solo, dice, ma l'articolo 40 sottrae alla contrattazione tutto quello che riguarda la valutazione del personale. È vero, ma non è l'articolo giusto, nel senso che l'articolo 40 sottrae alla contrattazione la valutazione delle prestazioni, non il compenso, che è l'articolo 45 invece, riguarda l'articolo 45, il quale dice, aspettate che me l'ho pure stampato, comma 1, il trattamento economico fondamentale accessorio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, è definito dai contratti collettivi, le amministrazioni garantiscono ai propri dipendenti parità. Per premiare il merito e il miglioramento della performance, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono destinate compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica la clausola di risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo. Quindi non è che va contrattato il criterio di valutazione, ma a seguito della fissazione dei criteri di valutazione la ripartizione dei compensi. Il compenso non è stato fatto da nessuno, ma infatti non si faccia. Non è stato fatto. Scusate un attimo, c'era un intervento da parte della sala, Lucia. Allora, scusate, io oggi non ho sentito alcun accenno al problema dell'alternanza scuola-lavoro, che è una patata bollente che è arrivata addosso a noi delle superiori, che improvvisamente decurta l'orario didattico e curriculare e improvvisamente ci viene detto che noi siamo obbligati a fare 60 ore in terza, 120 ore in quarta, e tutto questo togliendolo, cioè tutto questo in orario curriculare e togliendolo ai nostri alunni. A questo punto mi sono ritrovata nella nuova direttiva della contrattazione proprio la voce alternanza scuola-lavoro con delle cifre che sono arrivate. sul MOF. Volevo un minimo di indicazione su questo. Grazie. Pure noi come docenti siamo stanchi. Allora, sono specifiche però, non sono risorse del MOF. No, questo me l'ha messo, guarda, qua questo mi è stato consegnato in settimana. Solo che cosa sta succedendo? Che è stato tolto dalle mani del collegio docenti tutto questo, è stato affidato a un componente dello staff che sta organizzando tutto, poi ci chiama e ci dice: sai, tu seguirai questo progetto come tutor in questa classe, tu come coordinatore dovrai organizzare l'attività, ma tutto questo in modo strano. Allora, non è un problema secondo me di risorse, è un problema di organizzazione. Allora, l'alternanza scuola-lavoro è una materia relativamente alla quale la 107 dà un potere al dirigente solo di relazione con l'esterno e di strutture convenzionali. La materia all'interno invece rimane sempre di natura tecnico-professionale, la materia. A questo punto, chi è che si deve occupare della materia? Dobbiamo tornare al modello organizzativo dello staff. Allora, il dirigente dovrebbe affidare, cioè il compito di gestire questa partita dovrebbe essere svolto, se c'è, da una figura individuata dello staff, ma dal collegio, perché è una materia tecnico-professionale. Torniamo sempre a quello che ho detto prima, lo staff non può essere individuato tutto dal dirigente, perché, dico pure una cosa, come ha fatto il dirigente a dare, che incarico ha dato a questo soggetto? Leggere i verbali di collegi docenti, questo non si fa mai, leggere i verbali di collegi docenti. Questa è la figura che si sta lavorando senza passare per il collegio docente, Allora vi anticipo che a breve vi chiameremo in un approfondimento come questa giornata sull'alternanza, ok? Andiamo oltre. Un attimo, la presidente. C'era l'intervento della compagna, si prega. E subito poi diamo la parola al presidente Qui deve prendere coscienza di una cosa, che la stragrande maggioranza dei nostri colleghi che stanno nelle scuole non hanno la summa mentis giuridica che abbiamo noi che siamo presenti qui. Sono dei perfetti ignoranti di queste cose. Quando non si leggono i verbali, come diceva il collega, il compagno, non è perché è il dirigente che non lo vuole leggere, ma siamo prima noi. Il collegio che non lo chiede. Che non vogliamo, perché dobbiamo andarcene a casa. Sì, è spesso troppo dentro per finire il collegio. È vero? Quindi, diciamo, le cose stanno. In effetti si dovrebbero fare a questo punto. Se vogliamo che i nostri colleghi prendano coscienza dell'importanza e del valore del collegio docenti, come diceva la dottoressa qui presente, bisognerebbe fare della formazione per questi studenti, dargli gli stessi strumenti mentali che abbiamo noi, che capiamo queste cose. Se noi gli diamo questi strumenti non capiranno mai quello che diciamo. Quindi è a monte il discorso, possiamo fare tutte le notte che vogliamo. Allora, io ho la sensazione che quindi il discorso, scusami, il discorso a questo punto, il sindacato, qual è il problema che si deve porre? Così come il dirigente, quando deve mettere un insegnante di sostegno vicino a un autistico, ha bisogno di personale formato sull'autistico, altrimenti non arriva niente. Così noi adesso, il sindacato, deve porsi il problema di formare l'utenza, di formare gli iscritti Io non so se ripeto la stessa cosa che sta dicendo lei, però forse neanche il collegio, perché mi sono resa conto, specialmente in quest'ultimo anno, proprio con la 107, che c'è un'enorme diffusione. Non lo so, io sto nella scuola primaria, quindi forse è una caratteristica specifica della scuola primaria, ma tra i colleghi ci si è proprio convinti che la 107 ha cambiato il mondo dello sport, per cui tutto quello che dice il dirigente, anche in collegio docente, lo può fare, questa è la voce che gira. Anche se si va a dire guarda che forse le cose è così, non è che si prendono la briga di andare a consultare la norma, la precedente, quella attuale, a confrontarsi, neanche chiedono, e questo diventa anche un motivo per discriminare le colleghe che come noi stanno facendo portavoce di quello che apprendiamo in questa sede. Prima Fiorella Esposito chiedeva il risultato del referendum. Io ho lavorato tantissimo a scuola per raccogliere le firme. Molte colleghe non hanno voluto firmare. E perché? A me interessa sapere perché. Va bene, passo alla prossima volta. La stessa dirigente, la prima persona a cui ho chiesto di firmare è stata la dirigente, la quale mi ha risposto: senti, per adesso non te la metto la firma, perché ci sono le elezioni per il sindaco, non mi vorrei schierare politicamente. Conclusione, me ne sono andata, non gliel'ho chiesto più di formare, perché è una presa in giro. Volevo che lei, come dirigente scolastico, potesse dare l'esempio alle colleghe che questa riforma non era efficiente. Grazie. Mario, prego. Volevo chiedere due cose, va bene. Io penso che la ricostruzione fatta da Anna sul bonus sia della sua limpidezza chiarissima, e non c'è neanche quasi bisogno di ulteriore spiegazione. Cioè, nel senso che io sono dirigente scolastico, e così come ho proibito al comitato di valutazione di entrare nel merito del salario, quando, perché alcuni. Perché ho detto, così ho impedito in contrattazione di entrare nel merito dei criteri di valutazione o dell'assegnazione, perché mi piaccio o non mi piaccio, ho detto ai miei amici e compagni delle lezioni, la prerogativa è mia, punto. Credo che se riusciamo a veicolare la chiarezza dei discorsi di fronte alla confusione di volti all'interno dei collegi, tra i miei colleghi dirigenti, credo che è una discussione che si può vincere, ma bisogna essere estremamente chiari. L'RSU non deve chiedere intervenire nei meriti criteri, il collegio non deve intervenire nei meriti all'interno dell'assegnazione, fermo restando l'obiezione, la critica di Anna a come è pensato con la rotazione. Ma nella fase esecutiva, diciamo, la dobbiamo mettere da parte. Cioè, io posso dire che quella norma fa schifo, e sicuramente fa schifo. Io ho sempre detto, se una norma del genere la facevano ai medici, i medici avrebbero preso i forconi, ma letteralmente i forconi. Cioè, già immagino i miei amici ospedalieri valutati in quel modo, ma secondo me ci sarebbe stato i forconi per strada. E questa differenza ci fa capire qual è la differenza tra la coscienza professionale, anche cooperativa, di quel settore e invece quella che abbiamo noi. Ma questo è un altro discorso. Però, diciamo così, cogliere il discorso di Anna ci deve aiutare a, come dire, continuare il ragionamento. Cioè, questa chiarezza di impostazione deve essere riportata nelle scuole così come essa è. Senza dire, come dico io, né una parola in più né una in meno, non farne, cioè, in quella sede una battaglia ideologica, nel senso di dire la norma va scritta. Io ho avuto una difficoltà con la compagna della RSU quando ho portato in contrattazione il salario accessorio dei criteri, e dice guarda, sinceramente non me la sento per una questione, poi ci vuole di rifiuto a priori, poi alla fine ha firmato per una stima, per una, diciamo, per un senso, diciamo, di appartenenza comune. Però Nei fatti, quello per me è stato un momento in cui ho avuto un problema, cioè dico, mi porto in contrattazione di stare l'assessore, lo sto appiccicando con tutti i miei colleghi, dico di no, e tu manco può fare, allora a un certo punto mamma capisci come devo comportarmi. Nel senso che effettivamente è un problema, cioè uno deve stabilire poi che cosa fare completamente. Fermo restando, ripeto, la posizione di Anna di principio che effettivamente è così. Cioè io la trovo un'aberrazione, però io con lo svolgimento del mio lavoro devo fare quello che devo fare. Sull'alternanza scuola-lavoro, credo, l'unica cosa che mi sento dire, perché è una questione che mi interessa oggi con l'avvertire, quindi i problemi che tengo sono diversi, il punto riguarda il fatto che i fondi che sono arrivati non si è capito bene a cosa devono servire. Io l'unica cosa che ho trovato, e invito a vederla, è una slide sulla prima pagina sul sito dell'USR Veneto, che ha fatto un convegno. All'interno di quelle slide c'è una parte in cui il direttore scolastico regionale del Veneto dice che per quanto riguarda i pagamenti che avvengono sui finanziamenti dell'alternanza scuola lavoro per il personale interno che può essere, a giudizio può essere pagato con i finanziamenti che arrivano per l'alternanza scuola lavoro, vanno contrattati. Cioè, nel senso che se io decido che il tutor, tenendo sul lavoro, svolge un'attività, e chiarisco un'altra cosa, la progettazione del percorso è competenza del collegio, punto. Cioè, questa è una cosa, mi sembra strana, che cioè, proprio lo dico, è il collegio e il consiglio di classe. Chiaramente poi dipende dalla modalità organizzativa, lo si farà per passi parallele, di parte, no, questo, insomma, ognuno ha la sua organizzazione, i suoi problemi. Però anche per questo dicevo, quando ho sentito la compagna che parlava, ho detto forse è meglio che almeno in questa sede un punto lo mettiamo chiaro. La progettazione è come il collegio dei docenti, diciamo, dei criteri generali, il consiglio di classe, l'individuazione del tutor avviene attraverso la procedura classe articolo 7, cioè quella della. La scelta di avere un referente, beh, ma boh, guardate, mi sembra anche abbastanza normale, voglio dire, gestire questa progettazione. Penso ad esempio ai rapporti con le aziende che dovrebbero essere a capo direttamente del dirigente, io stesso l'ho delegata, cioè nel senso in un raccordo con. Mi sembra assolutamente pacifico questo. Non volevo dire altro, grazie. Mi dispiace rimanere 30 secondi. Mario, non vedo più. Sì, ok. E vabbè, io non ho questo piacere. Mario, se volevo un attimo interloquire, ovviamente per. Allora, io sottoscrivo, mi interessa il bonus, tutto quello che hai detto. Volevo ribadire quali sono. Come dire, cosa proponiamo noi di fare concretamente nelle scuole per interloquire con voi se è in linea con quello che ha detto Mario oppure no. Allora, la metto così, il comitato di valutazione, al di là della composizione, lasciamo stare, è un organo collegiale, ok? Come lo è il consiglio di istituto, bene, con l'organo collegiale si interloquisce. Quindi, noi stiamo dicendo, uno, in collegio che facciamo? Viva Dio, abbiamo eletto sì o no tre docenti? Possiamo interloquire? Possiamo chiedere due più uno in consiglio di istituto? Tre? Vabbè, sono tre colleghi nostri, ok? Mettiamola così. Voglio dire, hanno un certo peso lì, no? Perché a parte il genitore e lo studente, che penso siano un po' neutri, mi auguro, di là c'è il dirigente ostile, ammesso che sia ostile, o Mario, che forse la pensa come noi, beh, poi me lo dirà alla fine. E poi c'è il rappresentante che designa l'amministrazione, quindi siamo 3-2, va bene? E i due gli altri considerano un po' neutri. Bene, possiamo lavorare per suggerire al comitato di valutazione, che è l'organismo che fissa i criteri a cui il dirigente è tenuto ad attenersi, salvo motivare in modo anche pesante perché non si attiene, di fare delle scelte piuttosto che altre? Nella legge, nelle famose tre lettere, non è che bisogna berle con l'imbuto, perché altrimenti il comitato di valutazione non ha senso di esistere. Possiamo scegliere lì, la dico in sintesi, possiamo convenire che non siamo d'accordo a fare la valutazione individuale della qualità della prestazione del singolo docente delegandolo al dirigente scolastico, così come valutare il docente in base ai risultati degli alunni, perché sappiamo tutti che un anno c'è una classe cioè, o l'assenza, quelle cavolate, assenza, presenza che proprio fanno ridere, che si inventano. Ma la qualità, anche il risultato degli alunni, ma viva Dio, io un po' che non sto a scuola, c'è mio figlio che sta in un alberghiero, c'è degli anni che ha delle classi con cui si lavora felici, degli anni è un disastro. Che vuol dire misurare il risultato degli alunni quando c'è queste situazioni così radicalmente? Cioè, è una cosa, la possiamo escludere e lasciare tutto il resto? Ma io sono totalmente d'accordo con Amerigo, che io ho fatto 3 collegi docenti per discutere dei criteri. Allora, devo dire, la confesso sino in fondo, però sono stato abbastanza deluso, cioè nel senso che perché colgo l'intervento di qualcuno, poi essendo una materia non proprio semplice da affrontare, non sempre la discussione è stata buona, però io ho fatto 3 collegi, va bene così, anzi in verità io nel primo collegio ho chiesto che venisse indicato al consiglio un nome che il collegio riteneva anche per il te, non era propriamente, a mio giudizio, probabilmente era un modo per dare ancora più forza al collegio. Cioè, c'era la collega docente dentro al collegio che stava nel consiglio d'istituto, ho chiesto tutte e due, dato un'indicazione al consiglio, poi il consiglio ha accettato l'indicazione del collegio. Bene, quindi questo è un terreno di azione, ok? Secondo terreno di azione, il rapporto con il dirigente. Possiamo vederci un attimo come sindacato e dirigente per dire se c'è un interesse comune condiviso a, come dire, a gestire questa partita con il più ampio consenso e con la più ampia condivisione possibile piuttosto che con il conflitto rischioso? Io mi auguro di sì. Tra l'altro questa roba incide, lo ricordavo stamattina, anche sulla futura valutazione della dirigenza, perché anche lì ci sarà una cosa che noi non siamo d'accordo, che sia l'ufficio scolastico regionale come organo monocratico a valutare. E uno dei pezzi della valutazione è l'aspetto reputazionale, che è lo stesso che hanno consegnato al dirigente, perché io ho laureato in chimica, se ho in un istituto della scuola primaria e devo valutare la qualità della prestazione di un docente della primaria o di un docente di filosofia, ma mi dite io, dirigente scolastico, laureato in chimica, insegnante di chimica, che competenze ho per valutare la qualità? Quindi lo farò su base reputazionale se rivendico il tuo diritto, perché gira gira poi questionare le famiglie, bla bla bla, ci capiamo. Bene, non è previsto dalla legge 107 perché la prerogativa di applicare i criteri individuali del dirigente non si discute, ma siccome ci abbiamo 2 risorse adesso, una è questa, l'altra è il fondo, possiamo praticare una strada in cui, dati alcuni criteri che escludono quella roba, c'è tutto il resto. E siccome tutto il resto che sta sui criteri è anche un pezzo di roba che sta dentro l'articolo 88 del contratto, che si può pagare col fondo, le stesse cose, possiamo convenire? Il dirigente, decidi tu, dimmi tu, ma se mi dici che ci vuoi pagare, che ne so, il coordinatore del consiglio di classe, il responsabile di plesso, di indirizzo di area, quelli che fanno didattica laboratoriale, producono materiali, portano i ragazzi in laboratorio, eccetera, eccetera. Possiamo convenire che a me va bene, come sindacato, ti dico se ci fossi io, mi va bene, ma possiamo scrivere la paginetta per dire che condividiamo sta roba in modo che poi il giorno dopo, quando ci mettiamo a trattare il FIS, concordiamo che col FIS queste cose non le paghiamo perché le riconosciamo di qua? Noi questo stiamo dicendo, quindi è vero che ci sono prerogative non contrattuali, ma come diceva lei, la cultura della condivisione, della concertazione, va nell'interesse di tutte le parti, innanzitutto dell'istituzione scolastica e dello stesso dirigente perché lo tutela. Poi invece quello che pretendo di contrattare perché voglio l'applicazione della legge, come ha detto lei, è il compenso, e non quella pagliacciata del ministero che, pensando che dire che è il dirigente che decide il range fosse scandaloso, cosa si è inventato? Ha messo in mano, appunto, con una fatti del Ministero, al comitato di valutazione anche la competenza a definire il range. Cioè si è resa conto che non può essere il dirigente, ma siccome avevano le mani legate, lo potevano dire nelle disposizioni ministeriali, se ne occupa il sindacato dell'RSU, hanno fatto questo pastrocchio che addirittura che è una cosa completamente ridicola. Ecco, quindi, queste sono le nostre indicazioni. Io credo che siamo nel rispetto delle prerogative di tutte, senza invasioni di campo, e credo che sia un percorso praticabile. A noi risulta che un 50% delle scuole, un po' meno con la formalizzazione dell'intesa, ma nella sostanza ci stiamo, Io penso che questo qui si possa allargare in maniera che alla fine dei 3 anni di sperimentazione, perché questa è, consegniamo al Ministero un dato che dice: guarda che il grosso non condivide quel tipo di valutazione fatta in quel modo. Non può essere che in Italia ci siano 9.450 sistemi di valutazione. Bisogna individuarne uno alla fine, possibilmente nel contratto. Allora, è una cosa che mi è sfuggita, ma la voglio ribadire perché non so in quale potrebbe essere il ruolo dell'RSU, ma è da mettere in evidenza. Ho visto criteri di valutazione che vanno censurati, nemmeno presi in considerazione. Procedimenti disciplinari subiti nell'ultimo anno, tasso di assenza. Ma lei ci vuole una regione interna? Malattie, cioè, ma stiamo scherzando, cioè, non sto vedendo delle cose buone. Ma il massimo è. Gli viene la scelta, l'altro non può ascendere. Questa è stata proprio la cosa grossa. In un provvedimento dirigenziale ho visto scritto pregiudiziale non aver superato, cioè aver partecipato al 90% pregiudiziale. Ma come te permette? Questo è discriminatorio. Non so, pregiudiziale, non può esistere, cioè su queste cose fate vigilanza di legittimità, manco di merito. Cioè noi siamo nell'illegittimità, la discriminazione, la violazione del principio di uguaglianza, di pari opportunità, è una cosa gravissima. E se uno ha la sfiga di non star bene non può partecipare. Allora c'era l'intervento di Filippo Sica. Se ci stanno poi altri interventi per indicare, così poi dopo chiudiamo con le valutazioni finali. Prego. Volevo integrare il settore della Filippo, non si sente, vai. Vabbè, detta Filippo, non si sente. Allora, volevo integrare il microfono su una prassi che è stata seguita in molte scuole, di dirigenti che hanno chiesto di fare domanda e che hanno valutato solo quelli che hanno fatto domanda. Ovviamente, diciamo, a chi me lo chiedeva dicevo non fa la domanda, ovviamente io ho fatto la domanda. Altri che hanno addirittura poi fatto questa assegnazione e hanno chiesto l'accettazione o la rinuncia, addirittura pure dopo, cioè l'avevano assegnata però hanno fatto fare l'accettazione e rinuncia, quindi una ha scritto rinuncia. Allora io penso, che voglio confrontare con Aldo e Amerigo, la legge dice un fatto preciso, che il dirigente assegna sulla base dei criteri, il che vuol dire che deve valutare il 100% dei docenti. È un problema suo come fa, non fa, se lo fa e non lo fa. Io penso che tutti quei dirigenti che non hanno valutato pensando che si potevano esimere perché non c'era la domanda andrebbero perseguiti, e quella sarebbe una prima batosta che secondo me si potrebbe fare senza grossi problemi. No, scusa un attimo, ci sta un altro intervento, ma Marisella Mortellaro. Poi se vuoi possiamo. Sì, no, è una certo. E solo un'osservazione. Seguendo il metodo ministeriale, quello del monitoraggio, prima si fanno le leggi, poi così a caso, poi si fa un monitoraggio e si vede se funzionano. Vabbè. La questione di spostare il bonus su alcune attività d'accordo, secondo un'intesa eventualmente precedente la contrattazione, ha creato di fatto qualche problema. Cioè quel meccanismo che diceva Anna. Perché? Se si decide per alleggerire il fondo, si parlava stamattina, spostiamo le risorse del FIS sugli ATA, perché di fatto alla fine il bonus è diventato un aumento salariale in assenza del rinnovo del contratto a vantaggio solo di una categoria. Se si fa questa logica, si dice le attività di coordinamento, le attività, un certo tipo di attività progettuali, spostate, il cui pagamento viene spostato per intesa, per pre-intesa, sul bonus, fa scattare, non dico legittimamente, ma comprensibilmente, nel dirigente, una preoccupazione. Ma se, visto che abbiamo stabilito quale attività retribuire, non chi è più meritevole tra quelli che hanno svolto quelle attività, io ci vado a mettere il limite delle assenze. Perché diventa una pregiudiziale? È chiaro che quell'attività non me l'hai svolta. Bisognerebbe combinare la premialità con il sistema Brunetta puro. Allora verrebbe fuori quel meccanismo, però questo porta da parte nostra la difficoltà di dover accettare il sistema Brunetta. Cioè non è tanto semplice. Ecco perché tanti collegi, come diceva la compagna, hanno gradito il limite delle assenze, addirittura la 104, addirittura le patologie gravi, l'hanno gradito. Ma ti dico che è così, ti dico che è così perché da là veniamo. Ed è un effetto distorto proprio dello spostamento del pagamento di alcune attività attraverso il bonus. Senza dire, Anna, che poi mi viene un dubbio molto forte su questo, e lo dicevamo anche nella struttura di comparto della scuola pubblica. Pagare delle attività, cioè stabilire prima quali attività retribuire, significa creare un percorso, probabilmente, di crescita professionale per alcune categorie che sono quelle che saranno, che avranno fatto una certa attività, che saranno state premiate, che quindi si spenderanno quella carriera professionale domani. Quindi il sistema intero va fuori pensato. Posso dire una cosa? Nasce tutto dal vizio che Brunetta aveva già individuato. Brunetta aveva previsto, aveva escluso la scuola dal piano della performance, ma rimandando tutto ad un accordo, e che non sono riusciti a fare l'accordo, perché se non c'è il disegno del servizio da erogare, non si può poi dire premio questo, non posso decidere su altra base l'organizzazione. È giustissima questa riflessione. Addirittura svilisco il senso della cosa. Dov'è però il problema? È che, ne ho parlato prima, non si capisce se è valorizzazione o valutazione, sono cose diverse. Cioè qua non si capisce niente, una volta la chiamano valutazione e un'altra valorizzazione, perché se è valutazione dobbiamo creare un sistema tecnico. Se è valorizzazione è una roba che rimane appesa all'idea di quel momento. Quindi è veramente brutta come situazione, ma proprio brutta. Proprio brutta. Comunque io queste aberrazioni dell'assenza e presenza io le censurerei proprio per una salvaguardia dei diritti fondamentali, di pari opportunità ed equità, proprio, ma proprio non l'ammetterei in nessun caso. Cioè proprio questi forconi. Vabbè, allora se non ci sono cose a proposito dei forconi. Molto spesso noi ci siamo trovati in assemblee dove è dai lavoratori che veniva citato questo, un malumore organizzativo complessivo che andava alla ricerca del capro espiatorio, resa più facile l'identificazione del capro espiatorio con le limitazioni alle sostituzioni, per esempio. Perché se tu mi limiti costantemente la possibilità di chiamare un supplente su un'assenza breve, è chiaro che io me la prendo con il collega che è in situazione di gravità, perché sono estenuata dalla ricorsività delle assenze con le connesse complicazioni che mi chiamano in campo a intervenire con la mia professionalità. Quindi alla fine gira che ti gira è il disegno di sottrazione che ci mette l'uno contro l'altro, e noi mettendoci gli uni contro gli altri, andando alla ricerca del capro espiatorio, facciamo esattamente l'interesse di questo disegno che poi a parole attestiamo. Ma è tutto così, aspettiamoci cose turche dal 165. C'è la compagna che chiede ancora l'intervento, mi pare che c'era anche la... no? Ok, allora concludiamo con l'intervento. Gli accadimenti sono che c'è chi sbaglia. Chi sbaglia va per sé individualmente, noi non siamo nazi fascisti. C'è l'intervento della compagna. Andiamo alle conclusioni, brevi conclusioni, visto che abbiamo sviscerato il problema tutti i suoi aspetti. Prego. Allora, io mi chiamo... un attimo, compagni, per piacere. Gilda Mone, insegno all'Istituto Alberghiero di Pollena. E noi già diamo il 40% al personale ATA, già da anni, perché... Perché l'istituto di alberghieri purtroppo hanno una situazione di mancanza di personale, assistenti tecnici in aggiunta e tutto il personale che lavora quasi, diciamo, 9 ore al giorno, almeno il mio istituto è aperto 9 ore al giorno e qualche volta anche di sera per cene particolari, e quindi il personale deve essere retribuito. Puliscono le cucine le sale, che sono cose in più rispetto a quello che fa il personale ATA e il collaboratore. Io sono un insegnante, quindi per me l'unica cosa che dico è che se il FIS da contratto ci dice che bisogna stare attenti alla didattica, cioè valorizzare la didattica con progettazioni alternative, fare tutto, noi negli ultimi, diciamo, 10 anni, io ne insegno da 24, abbiamo valorizzato solo il personale, docente e non docente, niente più, cioè non esiste più niente per i ragazzi, stiamo ancora qui a parlare soltanto del personale, perché non guardiamo che il fondo dell'istituzione scolastica, almeno l'unica cosa buona, nel contratto dice che dobbiamo parlare di didattica, di organizzazione, di come cercare di fare lezioni diverse ai ragazzi, e non lo facciamo, e neanche il sindacato ci dice di fare questo, tra virgolette, no, perché io non sono un RSU, sono un, diciamo, un coordinatore degli iscritti, quindi io ho sempre lottato, progetti mai, progetti di ricaduta nei confronti dei ragazzi non li facciamo da anni, se non con PON, FEST, e neanche più quelli, perché tra poco ci tolgono pure quelli. C'era la compagna che voleva fare una precisazione. Io sono un po' ritrosa per salire qua sopra. Se voi mi permettete, parlare. Allora. Non ci serve, guarda. Usa almeno il microfono. Ora ti faccio sentire io come abitare. Io volevo portare all'attenzione non solo vostra, ma anche delle figure competenti che sono presenti qui in aula, in quest'aula, di un caso. Ne ho già parlato prima con la compagna Fiorella, la quale però mi ha dato il suo giudizio, cioè il suo punto di vista da, come dirigente scolastico. No, chi dà il pensiero? Io così la penso. Io no, una dirigente scolastica. Perché? Allora, il punto è questo. Il punto è questo. Io sono un insegnante di sostegno e mi è stato affidato, mi sono stati affidati 2 bambini. Un bambino molto grave, un autistico. Premetto che io non sono formata per stare con la. L'altro bambino invece non ha delle patologie gravi e sono dislocati entrambi, uno su una prima e l'altro su una quarta. La mia dirigente mi chiede di dare l'orario del bambino molto grave quando lui è assente all'orario del bambino meno grave che in una quarta. Cioè mi dice che anche se nel mio orario c'è scritto che io in un certo orario per questo io lo voglio portare, voglio far uscire fuori questa cosa. Allora, se il mio bambino è molto grave si assenta spesso, quindi il principio del dirigente è questo, dice: allora, per ottimizzare questa risorsa, tu quando il tuo bambino è assente, quello grave te ne vai nell'altra classe, okay? Ma questo è il punto di vista del dirigente. Io però adesso a questo punto voglio dire questo. La figura dell'insegnante di sostegno adesso non è più quella che deve attivare l'integrazione del bambino. Americo. Questo bambino bravo, aspetta. Americo, ascolta. Il bambino che è molto grave ha bisogno di essere integrato. Questo bambino autistico si rifiuta di entrare nella classe perché un ambiente nuovo sta in prima. È passato dalla sezione materna alla sezione primaria. La primaria ha cambiato ambiente e quindi non riesce ad entrare. Ha bisogno di tutto un lavoro alla base per l'integrazione. Quindi deve accettare i suoi compagni in modo diverso. Lui entra solo nella palestra, è l'unico ambiente che gli è facile riconoscere perché lo conosce da prima. E quindi io devo attivare tutte delle strategie affinché i suoi compagnetti di prima entrino nella palestra in un momento della giornata in cui non c'è lezione. Abbiamo la domanda però. La domanda è questa: io come attivo l'integrazione e tutto questo lavoro che c'è alla base, sia quando c'è il bambino e quando non, soprattutto quando non c'è il bambino? Perché poi agli altri bambini io devo anche insegnare come loro devono approcciarsi a lui, perché devono parlare in un certo modo, devono alzare la voce, tutte queste cose. Come lo faccio se io, quando lui assente che è il momento migliore per attivare l'integrazione, non ci sono nella classe, ma devo andare nell'altra classe? In più, c'è un altro punto di vista da tenere presente. L'insegnante di base, che è di lei doveva essere... Un secondo, perché fra poco siamo alle conclusioni, La allora, conclusione di tutta questa storia, qual è? Che il dirigente, quando io gli ho apportato queste giustificazioni, non ne ha tenuto conto. Mi ha fatto un ordine di servizio e con me ha incluso tutte le mie colleghe di sostegno. Dicendo, non hai fatto un PDF? Scusami, Lucia, non interagiamo. Una domanda insieme a un'altra domanda. Facciamola concludere. Facciamola concludere. Poi ci sta l'ultimo intervento da parte della compagna. L'ordine di servizio dice che io, appunto, è quello che ho detto già, mi devo assentare dalla classe. Io e tutte le altre colleghe dell'istituto, sottoposta a questo risultato. Allora la domanda mia è giusto, lo può fare? Ho detto perché il collegio docente in questa cosa non ha nessun valore. Vabbè, abbiamo capito, ok. Allora c'era l'ultimo intervento, Maria, grazie, l'ultimo intervento, poi le breve conclusioni da parte sia di Anna che di Amerigo, a conclusione di io sarò veramente breve. Io anche qui, come il collega Mario, in questo momento ricopro un ruolo di dirigente scolastico, ho 26 anni, però vengo da 26 anni di insegnamento, di cui gli ultimi su sostegno alberghiero, Poggio Reale, quindi una zona molto particolare. Il discorso del sostegno e del docente di sostegno io non credo che vada affrontato a colpi di ordine di servizio, ma richiamando il gruppo dei docenti che lavora sul sostegno, soprattutto al buon senso e all'accoglienza. Autistico, non autistico, noi abbiamo preso un titolo che è un titolo polivalente, non lo dimentichiamo, 800 ore fixi, per cui per l'Italia meridionale, diciamo, fino a poco tempo fa, diciamo, il monopolio era nelle mani del magistero, è un titolo polivalente. Se poi c'è un docente che nella scuola è specializzato per affrontare le problematiche legate all'autistico, tanto meglio, ma altrimenti, ripeto, è un titolo polivalente ed è rimessa anche poi all'abilità, alla capacità di autoformazione e di approfondimento del docente, trovare quelle strategie che prima dicevo. E voglio dire sinteticamente un'ultima cosa. Le linee guida sull'integrazione degli alunni disabili del 2010, non vorrei sbagliare, ma sono mai abrogate, dicono proprio questo, nell'utilizzare, non voglio neanche usare questa parola, nell'impiego dei docenti di sostegno, la prima cosa che va salvaguardata è l'integrità e l'attuazione del progetto di inclusione d'istituto. Per cui io sono d'accordo con i diritti e le prerogative di qualunque insegnante, ma se c'è un alunno H o diversamente abile, come lo vogliamo chiamare, che ha una frequenza effettivamente saltuaria perché ha tanti problemi e ci sono delle situazioni in quella scuola drammatiche per cui altri docenti di sostegno assenti ed alunni H diversamente abili nelle classi che necessitano di un intervento didattico individualizzato, io credo che sia corretto che il dirigente, attraverso, come dire, un coinvolgimento di quei docenti, li sensibilizzi ad entrare in quelle classi e a farsi carico anche di quegli alunni. Fermo restando che l'alunno diversamente abile è un alunno della classe e non è l'affare del docente di sostegno, è l'affare di quel gruppo di docenti. Se in testa non ci entra questo, cara professoressa, mi scusi, faremo sempre la lotta del singolo RSU che poi entra in contrattazione per difendere la propria singola posizione. Cerchiamo di fare un discorso più ampio. Quello che ho molto toccato, mi ha insegnato tanti anni. No, è stato chiaro. Grazie. È stato chiaro. Sì, sì. Allora, le conclusioni a Fiorella Esposito di questa giornata grazie a tutti voi che siete in sala, siete resistenti. Stamattina la sala era strapiena e quindi vuol dire che il bisogno di formazione è molto forte. La resistenza fino a quest'ora e l'accalorarsi del dibattito dimostra che siamo appassionati del lavoro che facciamo. Abbiamo raccolto, come dire, l'adesione di più della metà delle RSU che teniamo a Napoli e provincia, ed è un tassello importante nella costruzione di un rapporto costante di formazione con le RSU, perché guardate, non c'è nulla di più brutto per un sindacalista sentirsi dire, come Anna si è permessa di dire, i sindacati non lo sanno quello che succede nella scuola. E non c'è niente di peggio che sentirsi dire, voi mi avete fatto candidare, mi avete detto che mi avreste formato, invece non mi avete formato, non siete venuti al tavolo con me, non siete intervenuti nell'ingiustizia, dimenticando tutte le volte che abbiamo convocato con la mail, con l'invito, con la telefonata, con i messaggini e WhatsApp a sessioni di formazione che facciamo nelle sedi. Abbiamo 30 sportelli, 30 sedi. Compresa quella sull'alternanza scuola-lavoro. Ora l'impegno nostro sarà uno, a breve, attivare un seminario sull'alternanza per approfondire questo aspetto. Due, riproporre item di formazione sulle singole sedi, prima per valorizzare il contesto territoriale, poi per farvi conoscere. È importante che le RSU si mettano in rete, in filiera. Se noi su un territorio come Afragola, per esempio, a caso, abbiamo 3-4 istituti secondari e secondo grado, le cui RSU si parlano, è anche più facile addivenire a intese e contrattazioni con i rispettivi dirigenti scolastici che si parlano. E la stessa cosa vale per gli istituti comprensivi. Fare rete, avere dimensione territoriale è fondamentale. Oltre che, se pensate un attimo a Caivano, l'esperienza dell'ultima settimana su Caivano, siamo riusciti a far ripartire un servizio che il Comune aveva sospeso, la mensa per la scuola dell'infanzia, con mille difficoltà. Però siamo intervenuti come Confederazione Generale del Lavoro, come CGL, e abbiamo attivato una contrattazione sociale territoriale. Quindi queste cose possono produrre effetti se continuiamo a praticarle e se riusciamo a considerare il punto di riferimento della sede come un punto dove creare aggregazione, incontro, discussione, elaborazione. A voi cosa chiedo? Tanto di partecipare quando vi chiamiamo. In secondo luogo, di farvi un programma di lavoro. Prima Medico mi suggeriva un programma di lavoro che ogni RSU dovrebbe farsi, a cominciare dal contattare i colleghi RSU eletti nelle altre liste, per cercare di fare un canovaccio delle azioni da intraprendere, la consultazione dei lavoratori, i passaggi dialogici con il personale ATA, la discussione in assemblea, con e senza l'organizzazione sindacale, per capire i bisogni di quelli che rappresentiamo. Poi andare a formalizzare una proposta, come diceva Anna, la proposta contrattuale, perché il dirigente viene con la sua proposta. Se la RSU è chiamata a dirimere, a pulire, a scorticare la proposta del dirigente scolastico, si attesta su una posizione difensiva. Se la RSU alla proposta del dirigente scolastico propone unitariamente un'altra proposta, semplifica il lavoro, perché abbiamo, come dire, un canovaccio complessivo di ragionamento su cui intercettare anche la fiducia del dirigente scolastico, che in quella sessione, in quel tavolo, si sente molto spesso più minacciato che tirato dentro processi partecipativi e di condivisione. Ancora, sportello RSU e la questione che diceva uno degli ultimi interventi: non si parla mai di come migliorare l'offerta formativa. Non è vero, non è vero che non si parla mai di come migliorare l'offerta formativa, anzitutto perché quando c'è il delegato provinciale a un tavolo di contrattazione e verifica che le risorse economiche del FIS sono tutte schiacciate sulle figure organizzativo-gestionali, o referendo, o responsabili, chi arrabbi, chi chiude, chi tiene le chiavi, chi risponde al telefono, chi porta registro, in genere fa storie, perché una buona parte di quelle risorse dovrebbe, come sta scritto nella finalità del contratto, essere impiegata per i progetti destinati alla didattica, cioè agli allievi. I fruitori di quelle somme, indirettamente, devono essere gli allievi, e non l'organizzazione, non la scatola, ma quello che dentro la scatola ci sta. Quindi questa cosa non corrisponde al nostro comune sentire. Inoltre, migliorare le condizioni di lavoro, la soddisfazione sul lavoro, pacificare le fazioni all'interno delle scuole anche attraverso un buon contratto di istituto, significa migliorare il clima generale di quelle istituzioni scolastiche e quindi migliorare l'offerta formativa. Perché se io arrivo a scuola di mattina allegra, i miei allievi ameranno quello che insegno. Se arrivo già un po' storte, poi struzzelli in sala docenti perché vedo un collega della fazione avversa, io conosco casi di scuole che fanno scuola da questo punto di vista, è chiaro che lì c'è bisogno proprio di una santità manifesta per continuare ad essere docenti a tutto tondo. Perché il clima relazionale, il nostro è un lavoro anzitutto relazionale, sia come mediatore culturale quando si è in classe a fare l'insegnante, sia come dirigente scolastico quando si parla con l'universo mondo. E allora, se riusciamo a recuperare questi temi, formalizzandoli, isolandoli, facendoci un ragionamento, probabilmente ci avviamo su una strada di maggiore e più approfondita consapevolezza. Infine, la formazione agli iscritti. Guardate, i nostri iscritti ricevono generalmente, poi abbiamo i siti. Oggi, grazie anche ai 500 euro, tutti quanti abbiamo lo smartphone. Quindi, www.flcgl.it. Cliccate, c'è tutto. Per chiave di ricerca, per data di ricerca, per circolare, per decreto, per notizie e per comunicato. Cliccate, restate informati, perché l'informazione, la conoscenza sono il primo bagaglio necessario, insostituibile per attestarsi su una qualsiasi posizione. Scienza e coscienza. Voi siete la classe colta del paese, non lo dimenticate mai. Se vi lasciate trascinare dalla frase d'effetto, tipo gli slogan di Renzi, o dai titoli d'effetto, la buona scuola, come bella riforma costituzionale perché facciamo questo, codesto e quello, dimostrate di non essere la classe colta del paese. Dietro l'apparenza ci deve essere sempre una sostanza banalizzata, e la lingua italiana è bella perché ce lo consente. E allora, con l'impegno nostro a richiamarvi per le cose che ho detto, ma con l'impegno vostro a frequentare le nostre sedi perché diventino il luogo di aggregazione delle RSU, dobbiamo formare accanto alle reti di ambito, dobbiamo formare le reti di RSU, così condividiamo le soluzioni migliori ai problemi di un determinato territorio, perché vi assicuro che quello che succede in una scuola non è che gli altri dirigenti delle altre scuole non lo sanno, si parlano. Impariamo anche noi a scambiarci informazioni e soluzioni. Quindi vi chiedo questo impegno, vi chiedo l'impegno a rispondere quando vi chiamiamo alla partecipazione, come avete fatto oggi. Vi ringrazio per la pazienza e per la calorosa partecipazione. Siete, io penso, Anna, che loro rappresentano la parte migliore del sistema pubblico istruzione. Grazie. Grazie ad Anna Morone che nonostante le sue